Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Le 4:29. Che succede, ragazzo? Ah, niente, vecchio. Non mi tornavano i conti. Ne mancava uno. È una scena famosa di Per qualche dollaro in più. Non tornavano i conti dei morti e quindi se ne ammazza ancora uno. Poi finalmente i conti sono pareggiati. Questa scena di Spaghetti Western è l'incipit del nuovo libro di Pino Aprile, che abbiamo più volte chiamato a questi microfoni, che è il libro per lui più doloroso. Pino Aprile, ricordo, che è un giornalista e saggista, ha scritto vari libri sulla riscossa dei meridionali, la cui cifra emotiva era la parola Terroni. Adesso ha fatto un passo avanti. Il suo ultimo libro è stato Il Sud Puzza, storia di vergogna ed orgoglio, edizioni PM, e oggi con lui presentiamo l'ultimo libro, che è Carnefici, sempre edizioni PM. Pino Aprile, buongiorno. Buongiorno a voi. Questo è il libro che più ti ha costato fatica e dolore, ci hai quasi lasciato la pelle, perché? È un pezzo di salute. Tu me l'hai detto. Tu me l'hai... Sì, hai ragione. Perché non immaginavo di dover trovare tante difficoltà. Cosa è successo? Mi sono reso conto a un certo punto che riuscire ad arrivare a definire l'entità, l'ordine di grandezza dei massacri, delle stragi che furono compiuti al sud, non sarebbe stato possibile attraverso archivi militari. E ho avuto l'intuizione, da un suggerimento involontario, di cercare attraverso i dati della statistica, demografia, amministrazioni giudiziarie, carcerarie. Ha incrociato tutte le fonti che avevi a disposizione. Esatto, ma partivo da un dato che mi sembrava fermo, e cioè è trovato dalla SVIMEZ, l'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, e da uno studio del dottor Delio Miotti, e cioè che nel 1867, non lo si sapeva, la popolazione al sud diminuì invece di crescere. Questo dato era passato quasi come niente fosse. Che era, diciamo, antitetico ad ogni dato reale, perché sono diminuiti, di solito cresceva. E infatti, ma nella storia dell'umanità, tranne che oggi nei paesi evoluti, la popolazione è sempre cresciuta. Non solo, ma al sud tutti i dati demografici acclarati, non discutibili, dicono che prima dell'unità d'Italia la popolazione del sud cresceva più che nel resto d'Italia, e in soli 6 anni smette di crescere, addirittura diminuisce. E non c'è stata nessuna epidemia, nessuna pestilenza, nessuna malattia che avrebbe causato questa roba? No. Quello che c'è stato ovunque, cioè ci fu il colera, ma ci fu al nord, ci fu al centro, ci fu al sud, però solo al sud diminuì la popolazione, quindi la colera non poteva essere la spiegazione. Allora ci fermiamo un istante. A Pino Aprile, come per Clint Eastwood, non tornavano i conti, e l'ha scritto, i conti che per lui non tornavano, come in realtà andavano realizzati ed esposti, nel libro Carnefici. Ecco le prove. Fu genocidio, centinaia di migliaia di italiani del sud uccisi, incarcerati, deportati, torturati, derubati. Un genocidio di cui non c'era traccia, anche se un genocidio è accaduto veramente tanti anni fa. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Colonnello Poulet. Soltanto dando un esempio terribile si può estirpare il bubbone della rivolta che si va estendendo in tutti i paesi del Catanese. La vostra presenza. E intanto lei non ha impedito che la canaglia mettesse le mani sulle carte del municipio. Era per le loro terre, generale. Non siamo venuti in Sicilia per ritoccare i confini delle proprietà sulle mappe catastali. Ci penseranno i futuri governi, quando e se ne avranno voglia. Noi siamo qui di passaggio. Il nostro compito è di lasciare alle spalle province ordinate e fedeli al nuovo Stato. E andare avanti, fino a Napoli e oltre. È questo il corso della storia. O crede che le beghe contadine possano costringermi a rimanere in questo deserto mentre Garibaldi si prepara... Questo è un film, uno dei film di rievocazione storica che parla dei fatti di Bronte. A parlare Nino Bixio, uno dei più fulgidi e imperituri eroi del Risorgimento, almeno come a noi generazione degli anni 50, ancora raccontavano la storia. Per Pino Aprile, che... oggi è qui con noi a parlare del suo ultimo libro, Carnefici, che è un libro che racconta in realtà che esiste una lettura della storia diversa rispetto a quella ufficiale, che stranamente noi possiamo essere d'accordo che sulle vicende più recenti che attraversano il nostro paese ci sia un'ambiguità di racconto storico, ancora non è ben chiaro in Italia cosa sia accaduto veramente negli anni che hanno scavallato fra la caduta del fascismo e l'inizio della democrazia, ancora c'è ambiguità su questo, però sono fatti recenti, sono fatti di cui i testimoni sono ancora in vita, quindi si capisce che esistono una difficoltà di una storiografia che vada al di sopra delle versioni individuali e parziali. Ma sui fatti risorgimentali sembra stranissimo, una cosa lontana. Chi ha ancora interesse di nascondere la vera storia del risorgimento? Pino Aprile, Nino Bixio, partiamo, I fatti di Bronte, che è forse la cosa più conosciuta, c'è un quadro famosissimo, un film, che a Bronte è qualcosa che non è proprio esattamente una bella storia, questo l'abbiamo sempre sospettato. Cosa accade veramente? Quando accade? Ma a Bronte accade che si hanno le conseguenze... Che anno eravamo innanzitutto? E siamo nel 1860. Garibaldi... Proprio l'anno dell'Unità d'Italia. Sì, arriva Garibaldi in Sicilia e promette la terra ai contadini, per cui questo gli fa un editto in cui dice la terra andrà ai contadini, non solo, ma chi parteciperà alla rivoluzione ne avrà il doppio, insomma fa belle promesse e la gente ci crede. A Bronte c'era già un contenzioso perché il re di Napoli aveva, per ringraziarlo perché aveva salvato la dinastia quando, dai francesi, Nelson, l'ammiraglio Nelson, per conto della regina britannica naturalmente, per ringraziarlo gli aveva regalato la Ducea di Bronte, una tenuta. Parte di questa tenuta i contadini dicevano è demaniale, del comune, non la puoi regalare, perché nel Regno di Sicilia c'era un istituto che non conoscevano i piemontesi, cioè gli usi civici, ovvero i senza terra potevano coltivare la terra pubblica tenendo per sé il frutto del loro lavoro, non ne avevano la proprietà, ma potevano possedere quello che quotizzando ricavavano. Questo impediva l'ultimo passaggio. Era un comodato d'uso gratuito. Esatto. Poteva usare la terra. Per quello si diceva auguri ai figli maschi, perché più figli maschi più quote. Comunque è un istituto molto, molto avanzato rispetto a come andava il mondo in quel periodo. E infatti non esiste oggi un comodato d'uso gratuito di beni pubblici per persone che hanno bisogno. Esatto. Esatto, ma infatti questo non esisteva immigrazione dal sud, perché l'ultimo passo dalla povertà alla miseria veniva bloccato da queste cose e da tutta una serie di istituti che però facevano capo alla Chiesa. Usavano braccia per lavorare, la terra c'era. Esatto, rispettava, c'erano delle norme, voglio dire, ecco, per cui i contadini dicevano quella non la puoi regalare perché quella appartiene al comune, cioè a tutti noi. È la nostra sopravvivenza. E quindi c'era questo contenzioso. Per cui arriva Garibaldi, dice la terra, così, ok, adesso ci prendiamo quello che è nostro. E invece gli inglesi, che sono i veri, come dire, fattori dell'unità d'Italia, il console, che chiamano Garibaldi, dice, amico, che diavolo sta succedendo lì? Quella è roba nostra. E allora chiedono una punizione esemplare e vanno in obbizio a dare questa punizione esemplare. C'è una cosa da dire, cioè fucila un po' di gente. È un po' di gente, però anche sul numero non è... Quanti ne fucila? Sì, ufficialmente sono una mezza dozzina, però... In cui c'era anche uno poverino che non era nemmeno in grado di intendere e volere. Lo scemo del paese. Storia tristissima. Oggi sarebbe un disabile psichico che è stato fucilato, che non sapeva nemmeno cosa gli accadesse. Sì, ma lui serviva, arrivò lì proprio una mattinata, portatemi un po' di gente a fucilare, proprio davvero una pagliacciata di processo, una farsa di processo e condannati, eccetera. Quello che invece sì, non diciamo si ignora, diciamo il gran pubblico probabilmente ignora, è che di Bronte in Sicilia ce ne furono decine e decine, centinaia. Perché ricordiamo soltanto Bronte, hanno fatto perché un film? Del resto non sono stati fatti film, te ne dico solo una. Il generale Govone decide di domare la Sicilia, ma siamo nell'863, poi ci sarà una guerra dei siciliani contro i piemontesi nel 66 e via di seguito. Quindi era un errore storico che noi bambini nel 1961 a scuola ci fecero fare le bandierine, la festa, il centenario dell'Unità d'Italia, ancora non era unita nel 61, per niente. Nel 61, il 17 di febbraio, viene proclamata non l'Unità d'Italia, va bene. Viene proclamato in Parlamento, così lo dice Cavour, le Royaumes d'Italie c'est une fée aujourd'hui. Notre roi souverain Victor Emmanuel le deuxième prend per lui même et ses successeurs le titre de roi d'Italie in francese. Si è autoproclamato re d'Italia. Vive l'Italia. E rimane secondo, tant'è che nel 1866 in un dibattito parlamentare il capo del governo a chi gli dice ma è ormai nata l'Italia, le sentenze degli stati preunitari non valgono più, quindi non si può considerare ancora Mazzini condannato a morte. E lui risponde: noi non abbiamo fatto l'Italia, abbiamo allargato il Piemonte. Beh, questo è sintomatico, allora, quello succede. E infatti, e la sentenza di condanna a morte su Mazzini deve rimanere, infatti rimase. Tutti i capi, cioè i padri della partita, Garibaldi, Mazzini, sono tutti condannati a morte dal Piemonte. Poi li hanno usati, lo stesso Garibaldi aveva uno stipendio, lo scrivo, sotto banco da Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele gli ha mandato dei soldi con cui, quando lui è andato a Caprera, ha potuto fare case, strade. Allora, vediamo un po', prima di entrare nella viva materia che tanto ti ha addolorato e ti è costato tanto, che hai scoperto che in realtà ci fu un massacro, un vero e proprio genocidio nelle estensioni più concrete in cui si possa usare questo termine. Cosa è accaduto realmente? Tu hai una visione del Risorgimento che è una visione conosciuta, diffusa, che in realtà non fu in realtà un moto reale, concreto, sentito dall'intera Italia di una dignità nazionale, ma fu quello che oggi diremmo nei termini complottistici una sorta di disegno fatto a tavolino dai poteri forti. Era l'adeguare il mondo, quindi non solo l'Italia, perché quello è successo da noi, non è che è successo in Italia, altrove no, è successo negli Stati Uniti con la guerra di secessione, è successo in Francia, è successo in Giappone, cioè allora il mondo si andava ridisegnando per essere funzionale alla nuova civiltà. Cambiava l'economia, diciamo. Esatto. E arrivavano le macchine e si cambiava l'economia. Rivoluzione industriale, così come accadde 10.000 anni prima, quando dai cacciatori raccoglitori si scoprì l'agricoltura. Cambiò il mondo, così come sta succedendo adesso, che dalla civiltà industriale andiamo in quella informatica. La differenza dov'è? Che dove è accaduto altrettanto, cioè negli Stati Uniti, gli eroi del nord e del sud sono nelle stesse pagine dei libri di storia come padri della patria, e non solo, ma si racconta nei libri di storia americana che in quella guerra sono morti più statunitensi che nelle due guerre mondiali messe insieme. Nella loro guerra civile, certo. Guerra civile, certo. In Francia, dove sterminarono il popolo della Vandea che non voleva fare la rivoluzione, il generale Westermann, mandato a domare la Vandea, torna dicendo: cittadini, la Vandea non esiste più. Tutti i bambini, le donne della Vandea, gli uomini della Vandea sono morti sotto le nostre libere spade e gli zoccoli dei nostri cavalli. Non ho un prigioniero da rimproverarmi. Ma oggi in Francia c'è un istituto studi pubblico sulla strage, il genocidio della Vandea, che ha prodotto finora 150 volumi. Perché in Italia non ce lo dobbiamo raccontare? Cosa manca in Italia? Allora, esattamente, il Risorgimento italiano in questa chiave, a chi era funzionale, cosa doveva accadere, cosa doveva cambiare in Italia? Era funzionale alla civiltà industriale, era un sistema di potere che da allora non è cambiato, perché lo iato, la diversità in Italia, nord-sud, industria, sud meno sviluppato, niente ferrovie, niente strade, è funzionale a un sistema economico. Questo ci sta facendo diventare sempre di più un paese arretrato. Se mi permetti, un dato solo vorrei dire, perché io uso una parola grossa, genocidio. Porto una serie di documenti, tutti pubblici, tutti di Stato, alcuni hanno forza di legge, come questo che sto per dire. 1863, il ministro all'agricoltura, commercio e industria, da cui dipendono le statistiche, scrive al re sul censimento del 61, maestà, nelle province che abbiamo conquistato la popolazione cresceva di tot all'anno. Loro sono arrivati nel 60, quindi contando nel 61, dopo un anno, avremmo dovuto trovarne X, invece ne abbiamo trovati Y. Questo è dovuto, spiega lui, e qui parlo fra virgolette, cito il documento, alle gravi circostanze occorse per il grande atto del nostro rinnovamento, la guerra, cioè, chiuse virgolette, ovvero quanti italiani è costata questa guerra, lo dice lui, 458.000 in un anno. Come fai a non usare la parola genocidio? Cioè, in un anno sono state ammazzate quasi 500.000 di persone. Sono mancate, diciamo che qualcuno può non essere nato perché hanno ammazzato il possibile padre. Ok, in un anno, per esempio, a 10 anni dalla guerra, hanno messo in galera al sud 400.000 persone. il 6-7% della popolazione. Provate ad immaginare di abitare in un paese, in una città di 100.000 abitanti, e mettano in galera in un anno 7.000 persone. Questo è successo al sud. Fermo un attimo, prendi fiato, diamo la linea alle informazioni della borsa, riprendiamo con Pinaprile tra un istante su quelli che sono i documenti che lui ha scovato, documenti non nascosti, non seppelliti, fonti aperte, mi suol dire, ma fonti aperte che nessuno storico pare che voglia prendere in mano. A tra un istante. JP Morgan Asset Management vi presenta. Melog, cronache meridiane. Avete visto? Sangue dello demonio, ci romperemo la corna. Non ce ne sarà manco uno che arriverà vivo a Bronte. Bene, Bronte ci ha dato il suo saluto. Secondo il governatore di Catania era tutto chiaro. A Bronte è in atto una rivolta babbonica, dice lui. E invece là sventola il tricolore. Tricolore o no, sembrano ben intenzionati a farci la pelle. Qui ci vuole più prudenza che coraggio. Se volessero da lassù ci potrebbero sterminare... Basta un filmetto che magari non proietta più nessuno, nemmeno nelle scuole, dai preti, come accadeva magari tanti anni fa, per dare giustizia a una storia che manca di alcuni pezzi. Questo è il film Bronte, stiamo parlando questa mattina con Pino Aprile, l'autore e il giornalista che da anni si occupa con grande fervore di raccontare la storia dal punto di vista del Sud, non soltanto la storia d'Italia ma la storia del mondo, ha partorito il suo ultimo libro, edizioni PM, Carnefici, che è un libro durissimo, un libro corposo, un libro che secondo cui non tornano i conti, non tornano i conti dei morti, non tornano i conti di il prezzo di sangue che è costato il Risorgimento, la cui storia andrebbe riscritta. Pino Aprile ha trovato le fonti che comprovano questo genocidio estremo che costò al Meridione d'Italia, appunto, l'unità d'Italia, ma la cosa singolare è che queste fonti rimangano aperte ma non siano trattazione di analisi storica e scientifica. Tu ti sei domandato, Pino, come mai... La tesi che il Risorgimento sia frutto di poteri economici è una tesi che è stata portata tantissimo, una tesi era anche molto cara alla destra italiana nel dopoguerra, negli anni 70, che il Risorgimento fu fatto alla massoneria, fatto dagli inglesi, fu fatto dalle grandi banche, dai poteri economici, quindi se ne è discusso. La destra ha anche avuto un momento di potere politico, quindi potevano, fra le tante riscritture della storia, qualcuno da riscrivere anche la storia del Risorgimento. Perché non l'ha fatto nessuno? Ma perché la storia in Italia è uno strumento potente della politica nazionale. Non lo dico io, nasce così nel 1830, proprio nelle norme, diciamo, per l'Istituto di Storia Patria, deve costruire la nazione, la nazionalità. Si arriva al nazionalismo, questo viene detto allora e incredibilmente viene ripetuto ancora oggi. C'è la storia, gli storici lo dicono, storici di accademici, la storia deve unire il paese, creare uno spirito nazionale, che quindi raccontando delle cose che sono drammatiche, terribili, si rischia di spaccarlo il paese, eccetera eccetera. È una sciocchezza, secondo per me. Paradosso. Il fascismo fece del Risorgimento il cemento dell'unità nazionale, paradossalmente, perché doveva essere esattamente il contrario, ideologicamente parlando. Nel dopoguerra ci fu una forte presenza meridionale nella guida del paese, personaggi politici che hanno fatto l'Italia del dopoguerra. Com'è però nessuno ha mai pensato, nelle tante maniere di rivedere la storia, di rivedere anche questa storia, secondo te? Abbiamo avuto presidenti del Consiglio, uomini politici, leader, presidenti della Repubblica, meridionali. Nessuno ha mai pensato di riraccontare la storia secondo questo tipo di punto di vista. Come mai? L'Italia è stata unificata, non unita. L'Italia non è un paese, ce ne sono due. Uno ha le ferrovie, un altro no. L'altra velocità, l'altro no. Uno ha le autostrade, l'altro la Salerno-Reggio Calabria. Una, e così potremmo continuare. Questo è la questione meridionale, nasce con l'Unità d'Italia, prima non esisteva. Questo è un sistema di potere che ha anche retto, ha anche prodotto, voglio dire, neppure in alcuni casi, manco male, perché il Sud è cresciuto in questo secolo e mezzo di 16 volte, che è poco rispetto al resto del paese, ma è tanto rispetto ad altri paesi che sono partiti. Cioè, voglio dire, è un sistema che ha persino drammaticamente, lo dico come dire, con il sangue agli occhi, persino dei lati positivi. In che senso? Che essendo il sistema di potere italiano inserito in un sistema di potere mondiale, non si poteva e non si doveva toccare niente per non incrinare quei poteri. Se ti chiami Aldo Moro e tenti di farlo, fai la fine che fai, insomma. Infatti. Quello è. Poi, detto questo, tutti i paesi hanno bisogno di miti fondanti. Noi abbiamo quello di Garibaldi, la Svizzera Guglielmo Tell, che non è mai esistito, la Spagna è il Cid Campeador, che non è mai esistito, l'Unione Sovietica aveva la conquista del Palazzo d'Inverno, che era vuoto, non c'era manco il custode. Cioè, va bene tutto, poi però ci raccontiamo le cose. Professor Vittorio Daniele, buongiorno. Professor Vittorio Daniele, professore associato di politica economica, Università Magna Grecia di Catanzaro, è autore insieme a Paolo Malanima del volume Il divario nord-sud in Italia, 1861-2011. A lei pongo la domanda, lei è Pino Aprile è un collega, è un giornalista, uno può dire i giornalisti hanno dei loro strumenti approssimativi per raccontare la storia, ma lei è un professore a tutti gli effetti, sta in università e scrive libri che hanno un valore scientifico. Ecco, mi spiega... come mai non esiste un metodo parificato alla ricerca scientifica, all'evidenza scientifica in altri campi, anche nel raccontare la storia? Come mai oggi può essere che un giornalista come Pino Aprile dice ci sono delle fonti che nessuno storicamente ha mai usato per raccontare la storia secondo un punto di vista stranamente inconsueto oggi? Sì, intanto Pino Aprile ha scritto un libro molto interessante, molto bello, con molti spunti. Effettivamente compie un'operazione che gli storici, ma io dico non sono uno storico e invado un campo che non è il mio, e, diciamo, non hanno fatto in questi anni o hanno fatto... Sì, però lei studia l'economia, che è l'asse portante su cui poi si articola la storia. Senz'altro è un aspetto certamente importante, ma per quello che riguarda, diciamo, l'analisi, devo dire che non io, ma storici importanti, per esempio come Paolo Macri, che scrive un bel libro, Unità a Mezzogiorno, dichiara sin dall'inizio che su alcune questioni, in maniera particolare quella che riguardò, per così dire, il processo di unificazione o l'annessione del Regno delle Due Sicilie, e questa indagine per molti aspetti completa l'indagine storica, cioè come se bastasse la damnatio memoriae dell'esperienza borbonica e bastasse quella, e quindi non ci fosse bisogno di approfondire ulteriormente quello che accadde. C'è un aspetto, per la verità, che in questi ultimi anni, a partire dal 2011 in maniera particolare, ci sono una serie di studi e di analisi che hanno riproposto con forza punti di vista differenti. Pino Aprile nel suo libro ne cita alcune di queste fonti, ne cita diverse, per la verità. Esiste grande incertezza sulle cifre, intanto, le cifre che riguardano l'economia, ma anche quelle che riguardano le conseguenze della repressione del brigantaggio. Quello è un aspetto importante che meriterebbe certamente di essere studiato e approfondito. Si va da cifre che vanno dalle 5.000 circa vittime della repressione del brigantaggio tra i briganti, quella della relazione Massai dell'epoca, fino a dati che superano le 15.000 e raggiungono quasi le 20.000 vittime stimate di un lavoro recente, per esempio di uno storico economico come Ciocca, pubblicato sulla rivista di storia economica nel 2013, che ipotizza che le vittime furono tra 15.000 e 20.000. Sarebbe un esercito in questo senso, non sarebbe un gruppo di poveri sfigati, briganti, solitari, è un esercito se le cifre sono quelle. Sento molto poco. Dico, se le cifre vanno dai 15.000 ai 20.000, si tratta di un esercito, non è di un gruppo di briganti, appunto, fenomeno isolato, quindi, romantico. Diciamo, per la verità, queste cose per decenni, ed è stato evidenziato da storici autorevoli, sono state, per così dire, relegate ai margini dei libri di storia. Il brigantaggio viene spesse volte stato nei libri che siamo stati abituati a leggere per anni, è quasi relegato in una nota a piedi pagina, e Queste fu una vicenda fondamentale di una fase fondativa di quello che è stato poi il nostro paese, e quindi bisogna fare i conti con la storia, ci vuole coraggio naturalmente, ma bisogna, io credo, anche sganciarsi da pregiudizi e da visioni ideologiche che impediscono di fare piena luce su vicende. Ecco, le faccio solo una domanda, le chiedo di rispondervi in una battuta, poi riprendiamo dopo la pausa. La situazione economica del Sud pre-risorgimentale era veramente così disastrata da aver bisogno, un bisogno di moto popolare, di qualcuno che cambiasse le cose, di un popolo oppresso? No, guardi, i dati che noi abbiamo, che sono frammentari per la verità, riguardano principalmente gli indicatori sociali, ma le stime più recenti mostrano come le differenze alla data dell'Unità d'Italia e nei decenni immediatamente seguenti non erano così grandi. Probabilmente c'era un divario, ma era assai modesto, direi forse fisiologico, non superava a nostro giudizio il 10% in termini di PIL pro capite. Secondo altre stime era un po' più ampio, forse il 15%, ma non era certamente un divario ampio. Il divario è cresciuto dalla fine dell'Ottocento in particolare in poi, è andato aumentando nel corso del tempo. Quindi diciamo quella che sembra fisiologica, diciamo, arretratezza del meridione nasce dopo il risorgimento, in realtà è un fenomeno che non era ascrivibile prima del risorgimento, che almeno noi abbiamo capito nei libri di storia la vera ragione, andare a togliere ai diseredati uomini del sud, popolazione del sud, il giogo di chi li opprimesse. Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo con lei, professor Daniele. Melog, cronache meridiane. Io sono venuto qua perché c'è vista la disperazione nella gente mia. Abbiamo fatto la rivoluzione perché ci avevano promesso la Repubblica. Invece hanno cagnato un re con un altro re. Ci hanno riempito la capeglia. Questo è un altro film, li chiamavano briganti, sempre una delle poche testimonianze nel racconto dei film, dei telefilm, di quella che è la lettura del meridione d'Italia dal risorgimento in poi, che ha tracciato Pino Aprile nel suo libro Carnefici, edizioni PM, che è un libro che racconta che in realtà il prezzo del risorgimento per il Sud, che non voleva assolutamente risorgere ma stava bene come stava, questa almeno la tesi di Pino Aprile, fu centinaia di migliaia di uomini e di donne e di bambini massacrati. Fu un massacro che costò tantissimo, un bagno di sangue, di cui ci sono le prove testimoniali, documentali, che però nessuno tira fuori, ma c'è una storiografia che è stata suggellata, è una sorta di mitizzazione del risorgimento. Questo dice Pino Aprile, che è un giornalista, e a noi giornalisti può sempre dire che siamo superficiali, imprecisi, li raccontiamo le storie alla giornalista. Abbiamo sentito un economista che è ancora in linea, che è il professor Vittorio Daniele dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, che ci conferma comunque anche da un punto di vista di analisi economica. Le fonti più recenti dicono che la mitologia di un sud disastrato sotto il giogo di un oppressore che moriva di fame rispetto a un nord che lo ha affrancato è una tesi comunque da rivedere. Poi domando a Pino Aprile, prima di sentire ancora il professor Vittorio Daniele, mi spieghi però, se io voglio estremizzare la tua visione, la tua lettura, e conoscevo, perché già si sentiva nell'aria, nessuno però l'aveva documentata in un tomo di quasi 500 pagine con documenti e tutto. Diamo per buono che esista un disegno che nasce molto lontano, per cui l'economia, alcuni gruppi di potere economico, nel tuo caso organizzati dall'Inghilterra in primo piano, da alcune organizzazioni come la massoneria, va detto, il risorgimento fu un fenomeno massonico, assolutamente, ma questo non vuole criminalizzare nessuno, ma ci fu un disegno chiaro di dover cambiare qualcosa in Italia, ancora prima che lo pensassero i padri della patria, le popolazioni insorti, via dicendo, fu pensato a tavolino. Questo almeno penso siamo abbastanza d'accordo. Avrebbe portato poi, per un motivo economico, a fare il risorgimento, a trasformare l'Italia in un serbatoio inerte di una parte industrializzata che lo usava. Questa è la chiave di lettura tua. Ma il fenomeno dell'attuale situazione meridionale, che non è cambiata, al sud noi ancora scriviamo, tu hai detto, mancano le strade, mancano i treni, c'è una situazione sociale molto a rischio, sono i fenomeni della malavita organizzata endemica di questi posti. Ecco, a chi ancora farebbe gioco questo tipo di situazione? Se è l'estremizzazione di un disegno che parte lontano, parte a metà dell'Ottocento. Ha un sistema di potere economico e quindi anche politico di tipo industriale. La vera crisi del nostro paese in questo momento è proprio questa, che il paese è ancora barbicato, attaccato a un sistema di potere, di economia industriale, mentre il mondo sta cambiando in un'altra civiltà, in un'altra tecnologia, quella informatica. Il Sud quindi, mai come adesso, in 150 anni, a parte proprio l'aggressione armata, voglio dire la rapina con le armi che venne fatta, è stato depredato dall'unità d'Italia. Il professor Daniele ci diceva prima i dati al momento dell'unità. Bene, oggi il reddito pro capite al Sud è poco più della metà di quello del Nord. Ma perché? Perché le infrastrutture assenti impediscono una parità di opportunità di fare, di agire. Sì, ti sono più preciso, nella tua ipotesi il fenomeno mafioso che nasce, si sviluppa, cresce, comincia a parlarsene molto dopo il Risorgimento, ecco, a cosa era strumentale? Com'è nata veramente le mafie? Come sono nate nella tua ipotesi? Ma io lascio la mia ipotesi e prendo gli studi di altri che sono, come dire, lo raccontava per esempio il Chinnici, ai magistrati che dovevano fare delle indagini antimafia su richiesta dell'Associazione Nazionale Magistrati. La mafia, come la conosciamo, nasce, è un frutto avvelenato dell'Unità d'Italia, perché vengono assoldati i criminali che erano più o meno i delinquenti che stavano ovunque e vengono associati al potere economico e politico anche attraverso alcuni grandi, ma per esempio il barone Sant'Anna, che era massone ma di massoneria inglese eccetera, che dà a Garibaldi da subito circa 500 picciotti eccetera eccetera. Bene, basterebbe leggere due libri appena usciti, La mala setta del professor Francesco Benigno e Storia dell'Italia mafiosa del professor Isaia Sale, si è documentato come lo Stato fa nascere la mafia. Professor Vittorio Daniele, lascia lei economista poi la conclusione in fondo, perché mi interessa avere anche dei dati concreti. Ci aggiorna e ci dice qualcosa in più rispetto a questo presunto e storico divario economico fra sud e nord in epoca pre-risorgimentale. Come si reggeva il sud? Che tipo di economia si reggeva e come era socialmente, diciamo, distribuita il benessere o la possibilità di sopravvivenza rispetto al nord? Guardi, intanto gli indicatori sociali, che sono gli indicatori per esempio sulla mortalità infantile, sull'aspettativa di vita, la nascita, sul tenore di vita in generale, per esempio la diffusione della malnutrizione, della sottonutrizione, mostrano un quadro abbastanza omogeneo tra nord, centro e sud. Non ci sono grandi differenze, noi troviamo una incidenza della mortalità infantile, che è un importante indicatore del livello di sviluppo economico, che tra le regioni del sud è simile a quella di molte regioni del nord, quindi non c'è una differenza netta significativa tra nord e sud. La differenza c'era per quello che riguarda per esempio l'istruzione, ma per alcune parti del nord il tasso di analfabetismo era molto più basso rispetto al mezzogiorno. Il mezzogiorno raggiungeva livelli molto alti ed è quello che noi sappiamo dai primi censimenti. Per quello che riguarda invece la struttura produttiva, alla data dell'Unità d'Italia o nel decennio successivo, la struttura industriale, per esempio, della Campania era superiore nel complesso per alcune industrie, per esempio l'industria meccanica, le industrie manifatturiere in genere, a quella della Lombardia. Non c'era una differenza tra le due regioni. Cioè lei vi dice che in epoca pre-risorgimentale la Campania era la regione industrializzata rispetto alla Lombardia. La Campania era effettivamente la regione più industrializzata, per alcune industrie lo era di sicuro. Sono state fatte delle recenti ricostruzioni pubblicate dalla Banca d'Italia, di Ciccarelli e Fenoaltea, due studiosi, che mostrano, hanno stimato la produzione industriale dell'epoca. Quindi la Campania effettivamente era una regione industrializzata. Poi si può discutere sul tipo di industria, si può discutere sul protezionismo, su una serie di, diciamo, di questioni, ma rimane il dato fondamentale. La questione, secondo me, importante è che nel complesso l'Italia, tuttavia, era un paese ancora rurale. La grande differenza la faceva l'agricoltura, non la faceva tanto l'industria in termini di sviluppo economico. Quindi le stime che cosa mostrano? Mostrano che la differenza in termini di PIL pro capite, che oggi è così grande, come ricordava, fino a aprile si attesta attorno al 60% il PIL pro capite del Mezzogiorno rispetto a quello del centro-nord, con una differenza del 50% per esempio tra la Calabria, il Trentino e la Lombardia. E questa differenza è venuta dopo, perché all'inizio il divario in termini di PIL pro capite è stato stimato, come ricordavo, attorno al 10%. Insomma, non c'era la situazione di ritardo economico del Mezzogiorno. Perché? Perché l'Italia nel complesso era un paese rurale, ancora arretrato rispetto ad altre nazioni come la Germania, la Francia e l'Inghilterra, non aveva ancora conosciuto lo sviluppo economico moderno che si avvia verso la fine dell'Ottocento, e quando lo sviluppo economico moderno, cioè l'industrializzazione, si avvia tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento, allora il divario che all'inizio era contenuto comincia a crescere e queste differenze di sviluppo tra nord e sud aumentano. Il sud rimane indietro. Nel 1950 il divario tra nord e sud raggiunge il valore del 50%, cioè c'è un dualismo. L'economia italiana è dualistica, il nord, o meglio una parte del nord, le regioni del nord-ovest sono quelle industrializzate, il resto è meno sviluppato, il sud ormai è un'economia arretrata. Grazie professor Vittorio Daniele, grazie a Pino Aprile, siamo arrivati alla fine della trasmissione, però un dato almeno nuovo, inconsueto, che non era stato molto trattato in maniera così diffusa prima, viene fuori. L'Italia, almeno da un punto di vista del benessere, dal punto di vista economico, era più unita e più omogenea prima del Risorgimento che dopo il Risorgimento. Dal Risorgimento in poi, fatalmente, nasce la civiltà industriale, il mondo si industrializza, è cominciato il vero divario. Alla prossima!